Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:16, un nuovo appuntamento con Salva Danaio e non potevamo chiudere questa settimana senza parlare di mercati, di quello che sta succedendo sui listini, riflesso di quello che sta succedendo concretamente in Europa. E allora vi presento subito gli ospiti di oggi, come sempre autorevoli, tra ospiti e colleghi che sono venuti a spiegarci che cosa sta accadendo. In studio con me comincio da Valeria Novellini, analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore. Buongiorno, ben ritrovata Valeria. Buona giornata. Con Valeria parleremo in particolare di Facebook perché oggi c'è la quotazione, quindi un giorno che tutti, che in tanti aspettano e aspettavano. Ancora in studio con me Pietro Martorella, country manager di AXA Investment Manager Italian SIM. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Collegata telefonicamente Sara Silano, caporedattore di Morningstar Italia. Buongiorno Sara. Buongiorno a voi gli ascoltatori. E poi ci raggiungerà anche un altro ospite, ma subito vediamo che cosa sta concretamente accadendo in questo momento sui listini. Oggi diciamo che ancora una volta volatilità, questa è la parola che ha caratterizzato tutta la mattinata. In questo momento Parigi cede uno 0,34%, Francoforte lo 0,49%, Londra riduce leggermente le perdite, inflessione dello 0,80%. A Milano, che fino a qualche istante fa guadagnava mezzo punto percentuale, in questo momento il progresso dello 0,27%, mentre è stato quasi azzerato il progresso dell'All Share, che guadagna uno 0,12%. Sul listino principale il titolo migliore continua ad essere Finmeccanica, che guadagna poco meno di 5 punti. Unicredit allunga il passo, più 3,72%, A2A guadagna il 2,65%, Ansaldo il 2,33%, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna il 2,14%. In fondo al listino invece Fiat Industrial lascia il posto a Mediolanum, peggior titolo in questo istante, meno 3,21%, Fiat Industrial cede 3 punti, Ferragamo 3 punti, Tod's il 2,94%. Velocemente andiamo a vedere anche che cosa succede tra BTP e Bund. In questo momento siamo a 433 punti base, una ulteriore leggera flessione dello 0,08%. Questo per quanto riguarda la situazione in questo istante sui listini. Prima però di addentrarci bene in questo tema, vediamo che cosa succede oggi. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Milioni? Ovviamente ho usato un termine sbagliato, ho detto vediamo, e in realtà sentiamo, ascoltiamo con l'aiuto di Valeria Novellini che cosa succede oggi. Oggi una data molto attesa, più volte rinviata, rimandata, oggi finalmente ci siamo, questo pomeriggio per noi, questa mattina inoltrata per gli Stati Uniti, la quotazione di Facebook. La quotazione di Facebook, che offrirà 421 milioni di azioni, quantitativo aumentato dai 337,5 che dovevano essere inizialmente, al prezzo massimo fissato del range di 38 dollari, anche questo rivisto al rialzo. E quindi praticamente avrà luogo la più grande IPO tecnologica della storia, superando di gran lunga Google. E sarà in assoluto la terza IPO per dimensioni nel mondo dopo Visa 2008, General Motors 2010. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa IPO che, appunto, diciamo, già partendo dai numeri, partiamo da una IPO veramente imponente? Ci dobbiamo aspettare sicuramente molto interesse, perché sono giunte notizie che, oltre al grande interesse che c'è stato negli Stati Uniti, addirittura dai paesi asiatici sarebbero giunte richieste per 25 volte il quantitativo offerto naturalmente per quei paesi. Ci dobbiamo però aspettare che molto probabilmente il titolo schizzerà inizialmente. Le valutazioni non si possono azzardare perché, trattandosi di una società appunto la cui crescita futura attesa è molto aleatoria, sono incerte, però alcuni istituti di ricerca ci hanno provato e hanno detto che la valutazione più o meno iniziale dovrebbe essere intorno ai $44-45, addirittura ci sono siti di scommesse che la puntano a $56, però la cosa è molto incerta. Il problema non è però tanto quanto schizzerà oggi, ma cosa succederà in seguito, perché se è vero che LinkedIn, la precedente IPO tecnologica, è salita subito ed ha continuato a salire, per esempio Groupon è salita il 30% del primo giorno e poi attualmente alla metà del prezzo di offerta iniziale. Quindi non è tanto cosa succederà oggi, ma cosa succederà in seguito. Sì, certo, dovremo poi vedere anche come si svilupperà Facebook per sostenere poi anche l'andamento di borsa, perché molti dicono che ormai siamo arrivati, come dire, al culmine di questo fenomeno e bisognerà vedere che cosa si inventeranno per sostenere l'andamento e quindi per sostenere anche l'euforia che sicuramente all'inizio ci sarà. Guardate, il Financial Times ha calcolato che per avere un ritorno, non mordi e fuggi, ma li compro oggi e li tengo per alcuni anni, dei titoli Facebook ai prezzi attuali, preciso, non se salirà ancora, Facebook dovrebbe raddoppiare di dimensione nei prossimi 6 anni. La cosa ovviamente non è facile, teniamo presente che Facebook è limitata, cioè in alcuni paesi non ha accesso per volontà di quei paesi, sono grandi mercati tipo la Cina, teniamo presente che recentemente ha avuto una riduzione nella raccolta pubblicitaria e che alcuni inserzionisti grandi tipo General Motors hanno ritirato la loro pubblicità a pagamento da Facebook perché ritengono che non vi sia abbastanza risultato poi in termini di vendite. Grazie, io ringrazio Valeria Novellini per questa parentesi doverosa, visto che oggi appunto ci sarà la quotazione tra qualche ora alle 17 ora italiana, alle 11 per quel che riguarda gli Stati Uniti. E invece do subito spazio a Sara Silano, caporedattore di Morningstar Italia. Ben ritrovata ancora Sara, perché con lei andiamo a vedere il sondaggio effettuato fino alla scorsa settimana e che cosa è venuto fuori da questo sondaggio effettuato da Morningstar, almeno per quanto riguarda l'Europa. Partirei proprio da come viene percepita l'Europa. Il sondaggio che noi abbiamo realizzato su una ventina di case di investimento italiane ed estere che operano in Italia ha dato un messaggio molto chiaro. L'Europa viene considerata dai gestori un rischio per i mercati globali. I gestori non sono tanto preoccupati per quanto riguarda il discorso, che comunque è grave, del debito, ma soprattutto quello su cui mettono l'accento oggi è la situazione economica, una situazione economica recessiva che ha delle ripercussioni pesanti anche sui programmi di rientro del debito, perché sappiamo che se non c'è crescita è molto più difficile rientrare, e le operazioni che sono state fatte dalla Banca Centrale Europea, per quanto apprezzate dai gestori, non sono arrivate all'economia reale. Questa situazione è considerata veramente un nodo critico non solo per i mercati europei ma anche per i mercati globali. Sara, che cosa c'è da aspettarsi per i prossimi mesi? Perché abbiamo visto, quella di oggi è una mattinata davvero molto volatile. In questo momento posso solo dire che il FTSE MIB ha nuovamente allungato il passo, in questo momento il guadagno è dello 0,6%. Le previsioni per i prossimi 6 mesi, che è l'orizzonte che noi consideriamo nelle domande che poniamo ai gestori, sono più pessimistiche di quanto non fossero un mese fa. Il numero di pessimisti nell'ultimo sondaggio è salito oltre il 30%, dal 23% del precedente sondaggio, a fronte di una discesa degli ottimisti, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili coloro che si attendono molta volatilità intorno agli attuali livelli. Diciamo che il tema della volatilità c'è stato e ci sarà anche in futuro, ci sono degli elementi di preoccupazione, ci sono degli elementi nuovi, quale ad esempio quello politico, perché comunque abbiamo avuto dei test elettorali importanti in Francia e in Germania, sappiamo benissimo cosa sta accadendo in Grecia, questi test hanno dato un messaggio chiaro, hanno vinto, se così possiamo dire, i partiti anti-austerità, quindi bisognerà capire, si domandano i gestori, se appunto si passerà anche come linea europea da una politica più di austerità fiscale a una politica, a un patto per la crescita. Per quel che riguarda invece il comportamento dei fondi, qui parliamo sia della Grecia, che in questo momento è diciamo al centro dell'attenzione, ma anche di tutti quelli che vengono definiti paesi periferici, tra cui c'è anche l'Italia. Diciamo che nelle nostre statistiche abbiamo proprio recentemente analizzato come si stanno comportando i fondi che investono in titoli governativi euro e abbiamo visto che i capitali in effetti dalla Grecia sono già usciti. La percentuale di titoli governativi greci nei fondi da noi censiti è veramente dello 0,05%, molto molto bassa. Quindi dalla Grecia in effetti oramai sono usciti mediamente gli investitori istituzionali, fondi di investimento. È chiaro che ci si domanda quale impatto un'uscita della Grecia dall'euro, che non appare poi così impossibile oggi, su cui si ragiona anche concretamente, potrebbe avere sugli altri paesi periferici. E da questo punto di vista sicuramente dobbiamo dire che l'Europa è spaccata, non è una eurozona unita come era un tempo. Pensiamo solo ai tassi di finanziamento delle aziende. In Germania un'azienda si finanzia dei tassi molto bassi, in Italia o in Spagna i tassi sono più alti perché c'è un problema di differenziale di spread appunto dei titoli di Stato domestici rispetto al Bund tedesco. Le 12:34 minuti, stiamo parlando di mercati, di che cosa sta succedendo in questo momento. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Allora, ci hanno lasciato Sara Silano, caporedattore di Morning Star Italia, e la collega Valeria Novellini, analista dell'ufficio studi del Sole 24 Ore, che ci ha parlato della quotazione di Facebook. E invece ci ha raggiunto telefonicamente Gabriele Vedani, Managing Director di Italia Forex Capital Markets Limited, benvenuto. Grazie, buona giornata a voi e agli ascoltatori. E allora, subito però vorrei chiedere a Pietro Martorella, che è qui in studio con me, che cosa pensa di questa di questo pessimismo che è cresciuto tra gli analisti, tra voi del settore, in merito alla volatilità dei mercati, che cosa succederà da qui ai prossimi mesi. Vabbè, se dovessimo analizzare la giornata di oggi, oggi i mercati sono quasi schizofrenici, in questo momento Milano guadagna quasi un punto. Ma sicuramente direi sono aumentati i pessimisti, ma come sentivamo prima dalla dottoressa Silano siamo comunque nell'ordine del 30%, il che vuol dire che forse dovremmo guardare di più al 70% che ancora pensa tutto sommato che la possibilità di un breakup della zona euro sia in termini probabilistici abbastanza limitato, e forse dovremmo ancor più guardare a un orizzonte un po' più lungo rispetto a quello di breve e cercare di orientare le nostre scelte nel momento in cui vogliamo allocare i nostri risparmi al resto del mondo, visto che l'Europa oggi è così sotto attacco e così sotto stress, forse dovremmo guardare un po' più avanti. Con certezza la volatilità sarà il tema al centro dell'attenzione dei prossimi mesi. Magari ci attende un'altra estate calda, ne ricordo qualcuna, una in particolare di qualche anno fa che ci ha tenuto veramente sulle spine, ma noi siamo qui, faremo come sempre il nostro lavoro. Volevo chiedere su questo anche al dottor Vedani una opinione, perché appunto la dottoressa Silano ci ha raccontato del sondaggio di Morningstar in cui emerge questo pessimismo che avanza tra gli analisti del settore per quel che riguarda l'andamento dei mercati dei prossimi sei mesi, che è l'orizzonte temporale che loro analizzano. Sì, è un pessimismo che assolutamente affonda le sue radici soprattutto nelle possibili ripercussioni di un'eventuale uscita dalla Grecia, dall'euro, sui paesi periferici, in particolare dopo il tema del caldissimo dell'ultima settimana sulla Spagna, ma poi purtroppo sarebbero coinvolti altri paesi quali Italia, Portogallo, Irlanda. Difficilissimo stimare oggi la portata del contagio di un'eventuale fuoriuscita della Grecia. Sicuramente sarebbe un percorso molto doloroso. Ecco, purtroppo ci sono dei problemi, come avete potuto immaginare, sulla linea attraverso la quale era collegato il dottor Vedani. Cercheremo di recuperarlo. Io però voglio dare subito la parola a Gianni da Varese. Buongiorno, benvenuto. Pronto? Sì. Buongiorno signorina e complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Io volevo fare questa domanda qua, no? Volevo chiederle, in caso di un dissolvimento dell'euro, no? Comprare delle obbligazioni emessi da enti sovranazionali in moneta forte, in particolare dollaro australiano oppure corona norvegese, emessi dalla BERS o in Banca della Ricostruzione e dello Sviluppo o dalla Banca Mondiale. Secondo voi non è una cosa buona da fare da un buon padre di famiglia? Poi volevo chiedere anche questo, io le ho già, no, e mi trovo bene, e emessi dalla BEI, e volevo chiedere eventualmente in caso di crisi europea quelli emessi dalla BEI saranno ripagati oppure no? Grazie mille, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Gianni. Allora, noi cerchiamo di essere un po' meno pessimisti, perché francamente l'ipotesi di una dissoluzione della moneta unica cerchiamo di allontanarla il più possibile da noi. Però vediamo di capire con Pietro Martorella se diversificare a questo punto, quindi rivolgersi a altri titoli di Stato, appunto in monete forti, può essere una soluzione al momento. Ma direi sicuramente il fatto di guardare al di fuori dell'Italia e quindi già a livello europeo ed emittenti sovranazionali ci protegge in maniera immediata da quelli che sono effetti di contagio sui singoli paesi e in particolare quelli più in difficoltà, come potrebbe essere oggi la Spagna, il Portogallo e potenzialmente anche l'Italia. Direi assolutamente sì, dovrebbero essere sicuramente molto meno fragili rispetto alle emissioni nazionali. Il secondo elemento, sì, a riguardo direi delle possibilità come buon padre di famiglia di diversificare i propri risparmi, direi nell'obbligazionario in valute sia dei paesi direi del nord Europa sia dell'Australia è assolutamente un'ottima opportunità di diversificare appunto da quella che è la zona periferica dell'Europa che oggi è quella sotto attacco. Quindi possiamo dire che il signor Gianni sta operando come un buon padre di famiglia. Nel frattempo abbiamo recuperato il dottor Vedani, il quale, se ho capito bene, stava completando il suo ragionamento sulla una possibile uscita della Grecia dall'Europa, che sarebbe un percorso molto difficile, più che altro molto doloroso, e non solo per la Grecia. Assolutamente, perché al di là degli evidenti effetti che in Grecia si avrebbero il ritorno a una moneta locale, chiamiamola dracma, con tutte le problematiche oltretutto, non dimentichiamo, di ristampa del conio, delle banconote locali, che non può certo avvenire nello spazio di una nottata, ci sarebbero anche sicuramente dei problemi molto grossi probabilmente sulle nazioni che resterebbero all'interno dell'euro stesso. E per quello che riguarda i paesi periferici, stiamo introducendo appunto le eventuali pressioni che si trasferirebbero sul debito pubblico proprio di questi paesi, e abbiamo già visto nell'ultima settimana la potenzialità degli effetti negativi sui titoli, sui bonus spagnoli per esempio, ma anche la stessa Germania, che sembra un po', no, il carnefice in questo caso, sì, potrebbe rivestire il ruolo di vittima, perché si troverebbe probabilmente con un euro o un nuovo marco molto apprezzato, mettendo quindi assolutamente a rischio quella che è la tendenza per il momento positiva delle esportazioni, che sono, in un momento in cui la domanda domestica latita, il vero motore dell'economia tedesca. Allora, per tornare un po' a quelli che sono gli argomenti sollevati anche nella prima parte della trasmissione, io vorrei riprendere con entrambi questo concetto che non... È difficile in questo momento pensare ad un'Europa come un'unica entità, perché all'interno ci sono veramente delle differenze molto forti. Lo citava proprio adesso il dottor Vedani, la Germania in questo momento potrebbe sembrare il carnefice, poi in un secondo momento potrebbe avere dei grossi problemi da un'eventuale uscita della Grecia dalla zona euro e tutto quello che ne verrebbe giù a cascata, ma in questo momento per esempio ha dei rendimenti sui titoli bassissimi in confronto a una Spagna che ha dei rendimenti sui titoli molto alti, lo abbiamo visto ieri, cosa che ha aiutato a deprimere i listini tra l'altro. Quindi volevo capire anche attraverso l'aiuto di Pietro Martorella come la dobbiamo leggere questa situazione e come si deve muovere l'eventuale investitore proprio dal punto di vista dei titoli di Stato, perché poi è di questo sostanzialmente che parliamo adesso ed è questo il nodo attualmente più dell'azionario è l'obbligazionario che sta dando problemi grossi. Ma la focalizzazione dei mercati sui problemi del debito, in particolare dei paesi periferici, è un dato ormai di fatto dall'estate, direi, assolutamente calda del 2011. Il consiglio e in qualche modo quella che è l'esperienza della nostra attività di gestori e con una prevalenza di attivi investiti in asset obbligazionari è quella appunto della diversificazione. Il focus secondo noi dovrebbe essere oggi orientato ai titoli corporate, ai mercati, addirittura guardare ai titoli junk bond, al cosiddetto below investment grade, quindi alla componente... Cerchiamo di spiegarlo meglio, perché qui siamo un po' più didattici, più schematici nelle spiegazioni. In parole povere, se oggi guardiamo un investitore italiano che ha un BTP in portafoglio e che quindi ha un rischio di tasso a 10 anni e un rendimento del 4-4,5% e non ha nessuna diversificazione perché ha un unico titolo in portafoglio ed è quindi completamente soggetto a quella che è l'andamento dei tassi o l'eventuale effetto di contagio della volatilità che stiamo percependo in questi giorni, può sostituire o in qualche modo diversificare questo investimento costruendo un portafoglio con diversi strumenti, mantenendo un 20-30% di questo totale investito in titoli di Stato e diversificando l'ulteriore porzione, che a questo punto sarebbe il 70% residuo, tra corporate bond globali, magari attraverso un fondo di investimento, e l'ulteriore 30% tra fondi anche qua di investimento che permettono la più ampia diversificazione di titoli che investano sull'obbligazionario dei mercati emergenti o il mercato appunto degli high yield. Questo cosa permetterebbe? Di mantenere lo stesso profilo in termini di rendimento, ma avere fondamentalmente un rischio tasso molto più basso, perché la duration di questo portafoglio complessiva probabilmente sarebbe più nell'intorno dei 5 anni, avere una maggior protezione all'inflazione e soprattutto essere molto meno esposto all'effetto contagio e ai nostri problemi europei che ci perplimono tutti i giorni ormai. Sì, che ci assillano davvero ogni giorno sempre di più. Solo una curiosità, una mia precisazione che volevo: su paesi emergenti dobbiamo sempre pensare agli stessi paesi emergenti, quindi l'India, la Cina, che poi più di tanto emergenti non sono più perché sono emersi da tempo in tutto il loro splendore, diciamo, rispetto a noi, perché noi veramente ormai rispetto a quei paesi siamo davvero molto molto indietro. Ma dal nostro punto di vista di gestori sicuramente ci sono delle singole aree geografiche, potrei citare il Latin America piuttosto che l'area pacifica, asiatica, sulla quale si possono andare a fare degli investimenti specifici puntuali di maggiore interesse, però non mi sentirei di dare come consiglio all'investitore privato l'avventurarsi su singoli titoli o singoli paesi che poi espongono l'investitore stesso potenzialmente a dei rischi difficilmente monitorabili e controllabili nel tempo, ma di rifarsi anche qua a un gestore professionale che gli offra la possibilità di avere un'ampia diversificazione tra tutti i paesi emergenti, includendo i soliti BRIC piuttosto che i soliti noti, con magari anche paesi di frontiera meno conosciuti, ma delegando completamente la scelta a chi fa questo tipo di attività di lavoro e non da casa. Esattamente. Le 12:47 minuti, Alessandra da Modena, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Senta, io chiedevo, perché ho sentito, sì, c'è un po' di eco. E forse alla radio con il volume alto. No, ce l'ho basso, adesso lo spento completamente. Ecco. Ci dica. Infatti. Niente, sentivo il dottore che parlava dell'uscita dell'euro, dalla Grecia, se era positivo o negativo. Ecco, mi è sembrato di capire che per la Grecia sarebbe più una questione negativa dal punto di vista tecnico, e invece negativo per la Germania perché potrebbe esportare meno, avendo un euro tra virgolette marco più forte. Però se noi guardiamo dal punto di vista dei popoli, diciamo che dovremmo guardare se stanno bene i popoli, non l'euro o la Germania o la BCE. Allora, signora Alessandra, questa è una domanda anche un po' più politica e sociologica, se vogliamo. Certamente ci sarebbe da fare anche una riflessione sul benessere di chi abita questi paesi, ma noi in questo momento ci occupiamo di quello che potrebbe avvenire, se vogliamo dirla così, un passo avanti, cioè quello che potrebbe avvenire dal punto di vista della moneta unica, che sicuramente poi si riverserebbe anche sulla vita dei cittadini. E allora io voglio di nuovo tirare in mezzo il dottor Vedani perché ci spieghi bene, perché anche sì, per la Grecia sarebbe un male, ma sarebbe un male per tutti se la Grecia uscisse. Ma assolutamente, io non riesco mai a distinguere le mie analisi dall'aspetto puramente tecnico-finanziario da quello sociale, che poi, voglio dire, essendo di famiglia mi preoccupa assolutamente in maniera preminente. Giusto per espandere un attimino il concetto prima accennato, mi riferivo ai danni che un'eventuale rivalutazione dell'euro o del nuovo marco potrebbe avere sulla Germania, proprio su due aspetti. Il primo, appunto, di un rallentamento economico molto forte che verrebbe indotto, come dicevo prima, dal peggioramento della bilancia commerciale tedesca sul lato export. Dall'altro lato non dobbiamo, non possiamo dimenticare che la stessa Germania, che oggi viene ritenuta immune o meno esposta al contagio in caso di dell'euro e default da parte dei paesi periferici, in realtà è esposta direttamente tramite il sistema bancario per oltre 680 miliardi di euro sul sistema Target 2, quindi detenendo titoli a vario debitori, appunto, provenienti dai paesi oggi considerati a rischio, e quindi ci sarebbe anche un impoverimento diretto dei portafogli tedeschi dovuto, sì, appunto, a un'eventuale fuoriuscita dei paesi periferici. Luca da Venezia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci allora, dica. Noi stiamo discutendo di un'ipotesi che speriamo non succeda mai. Assolutamente. Questo, insomma, che diciamo che oltre alla Grecia possono uscire dall'euro il Portogallo, la Spagna e anche noi. Però visto che dobbiamo cercare di anche prevenire questa situazione, volevo chiedere anche, rifacendomi all'intervento del signore in precedenza, che sarebbe bene investire anche in altre valute alternative all'euro, appunto, se succedesse questa ipotesi che non ci auguriamo, e investire anche, diciamo, in titoli governativi magari americani, svedesi o canadesi. Se noi compriamo magari dei fondi di investimento o anche degli ETF che sono presenti e sono quotati nella borsa di Milano, ci esponiamo al rischio di un eventuale default della banca che li gestisce e che li emette, oppure, diciamo, da questo punto di vista siamo protetti? Allora, giro la seconda parte della sua domanda al dottor Martorella, poi torneremo sulla diversificazione in altre valute perché voglio chiedere a questo proposito a Vedani. Allora, Martorella, per quel che riguarda La risposta è assolutamente secca, no, non è, non c'è alcun tipo di rischio, nel senso che il patrimonio dei fondi di investimento o il patrimonio degli ETF è completamente segregato rispetto al patrimonio del proponente o della banca distributrice, quindi da questo punto di vista può essere assolutamente certo che nulla ha a che vedere la sorte dell'emittente o del proponente o addirittura della banca che gestisce o dell'istituto che gestisce il prodotto rispetto agli attivi detenuti appunto dal fondo o dall'ETF. Invece al dottor Vedani volevo chiedere, in un momento di euro piuttosto debole, in questo momento il cambio 1,2687, e con tutte queste tensioni che ci sono in Europa, dove dovremmo dirigere il nostro sguardo, verso quali valute per essere un po' più tranquilli, un po' più sereni? Ma innanzitutto vorrei puntualizzare che non necessariamente una fuoriuscita della Grecia si tradurrebbe automaticamente in un indebolimento dell'euro, perché anzi le incertezze che oggi stanno in qualche modo pesando sulla stabilità della moneta unica potrebbero venir meno, dando quindi la possibilità alla stessa di rivalutarsi. In secondo luogo devo dire che questo processo di diversificazione è un processo che è già parzialmente in atto. Abbiamo visto nelle ultime due settimane, appunto, l'apprezzamento del dollaro, che storicamente è stato valuta rifugio, ancorché sì, negli ultimi anni indebolito da una politica monetaria estremamente espansiva di tassi bassissimi implementata dalla Federal Reserve, però abbiamo visto appunto il dollaro rivalutarsi. Guardando al le altre monete, volendo rimanere nell'ambito delle cosiddette majors, cioè valute, espressioni dei paesi già evoluti, mandare appunto su valute esotiche che poi comportano altri rischi e altre volatilità e quindi sono sconsigliabili se non appunto ad operatori esperti, e il panorama direi che è abbastanza sconfortante, perché se vogliamo abbiamo un euro nei confronti dello yen a 102, quindi molto prossimo ai minimi storici mai toccati dal cambio in area 96, sì. Abbiamo un euro contro franco che è assolutamente ingessato al livello di 1,20 dal fatto che la Banca Nazionale Svizzera dall'agosto scorso si è praticamente opposta a qualunque ulteriore apprezzamento del franco nei confronti dell'euro, tracciando una sorta di linea Maginot proprio appunto in area 1,20, quindi impedendo ulteriori rafforzamenti del franco. Quindi forse l'unica moneta che in questo momento potrebbe giocare in un'ottica di diversificazione dalla moneta unica rimane la sterlina inglese, che però proprio nella scorsa settimana ha rotto importantissimi livelli e portandosi sotto quota 0,80 ha già in sostanza incorporato ai prezzi attuali molte delle cattive notizie che giorno per giorno stiamo leggendo. Io spero con questa risposta esauriente di aver accontentato anche Marcello da Trieste. Noi siamo davvero in chiusura, io quindi ringrazio i nostri ospiti, Pietro Martorella in studio con me, lo ringrazio per essere intervenuto di persona, Gabriele Vedani al telefono, a tutti voi auguro un buon weekend.